di perché in pochi sorridono, perché sono tutti così seri, perché, perché risucchiati in mezzo a un vortice. Questo posto non è fatto per me, per me, per me, per me. Vorrei sognare come se non ci fosse nessuno, dormire in mezzo ad un fiume di mani fino a domani. Vorrei sognare come se non ci fosse nessuno, pensiero numero uno, mandare la sveglia a fanculo. Se domani sarà forse un giorno migliore, da domani vedrai il mio lato migliore. Ma oggi no, oggi no. Telefono e cuscino, metto tutto in off. Oggi è lunedì, lunedì. Sai che odio lunedì, lunedì. Non chiamarmi lunedì, lunedì. E non svegliarmi, non svegliarmi. Odio lunedì, lunedì. Non chiamarmi lunedì, lunedì. Sai che oggi è lunedì, lunedì. Ma non pensarci, non pensarci, no. E ancora mi chiedi perché in pochi si parlano, perché sono tutti così seri, perché, perché ossessionati dalla paura degli altri, che poi gli altri sono uguali a te. Anche se poi non lo dicono. Vorrei sognare come se non ci fosse nessuno, dormire in mezzo ad un fiume di mani fino a domani. Si chiama vivere, sembra così difficile, ma in fondo è semplice. Non sai che giorno è? Oggi è lunedì, lunedì. Sai che odio lunedì, lunedì. Non chiamarmi lunedì, lunedì. E non svegliarmi, non svegliarmi. Odio lunedì, lunedì. Non chiamarmi lunedì, lunedì. Sai che oggi è lunedì, lunedì. Ma non pensarci, non pensarci, no. Sai che odio il lunedì, non chiamarmi lunedì, lunedì. Non svegliarmi, non svegliarmi. Sai che odio il lunedì, lunedì. Non chiamarmi lunedì, lunedì. Sai che oggi è lunedì, lunedì. Ma non pensarci, non pensarci, no.